Intanto crediamo che sia stata inopportuna la dichiarazione del ministro Urso, visto che lo stesso ministero ha convocato per oggi il tavolo dove doveva formalizzare chi ha la precedenza, comunque la trattativa unica rispetto a quello che è il passaggio societario di Marelli, e quindi ha fatto un'operazione dove sostanzialmente svilisce il ruolo del tavolo di oggi. Dopodiché noi abbiamo l'esigenza di iniziare a parlare con chi poi in realtà dovrà subentrare nel campo dell'assetto societario, una proprietà, che abbiamo necessità di capire, insomma, dal punto di vista sindacale, per poi iniziare ad aprire un confronto anche con chi poi arriverà all'interno di Marelli. Penso che la mossa del ministro Urso non sia stata una mossa del problema, da noi non condivisa. C'era un incontro, l'incontro doveva proprio formalizzare alle parti sociali chi era l'interessamento prioritario, e l'ha anticipato la stampa, potrà segnarsela, non lo so, però diciamo che non è stata una mossa da noi gradita. Un metodo, diciamo, non proprio appropriato, però no. Insomma, è stata individuata Tecnomeccanica tra le due proposte, sembrava quella, come dire, dal punto di vista occupazionale che offriva più garanzie. Sì, è quella da un punto di vista occupazionale con più garanzie, assolutamente sì. Ma dire che non è stata una mossa, secondo noi, fatta bene, anticipare rispetto all'incontro di oggi, non significa mettere in discussione chi è poi l'interessamento principale sul passaggio dell'azienda. Su questo, cioè, quella è la garanzia occupazionale più interessante rispetto a quelle che sono state le offerte messe in campo. Insomma, il tavolo ha un ruolo importante, da mesi che stiamo facendo delle discussioni con avvertenze che è durata davanti ai cancelli parecchio tempo, quindi crediamo che prima di uscire sulla stampa sia necessario, insomma, ufficializzare a chi di dovere, poi dopo eventualmente uscire sulla stampa. In ogni caso voi volete discutere appunto con la nuova proprietà? Assolutamente sì, anche con la nuova proprietà.